it was a good solution. Allora, dopo la presentazione di Elisabetta, in realtà noi volevamo collegarci con una compagna delle Ribellule che ci voleva insomma parlare di un'iniziativa molto importante che si svolgerà domani con una compagna egiziana che ha partecipato a quella che è stata definita la primavera araba. E oggi è stato anche un incontro a sociologia. Questo pomeriggio e quindi insomma volevamo che Simona ci raccontasse brevemente insomma l'iniziativa di domani, quali sono insomma i temi che si affronteranno e anche per quale motivo insomma hanno scelto nelle varie giornate in cui Rasha parteciperà insomma in varie situazioni qui a Roma, per quale motivo domani al Porto Fluviale hanno deciso di fare un'iniziativa separatista per poter discutere con lei. Ciao Simona. Ciao, mi senti? Scusate, abbiamo problemi tecnici visto che ancora non. Scusate, è caduta la linea. Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Eccola! Sì? Scusa, siamo le prime volte che armeggiamo con la corrispondenza telefonica e quindi ancora siamo un po' incapaci. Volevamo che ci raccontassi insomma. Pronto? Niente. Pronto? Nulla. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Streets of America, they kill the dream of America. Allora, ci sei? Sì, vi sento adesso, eccomi. Ok, allora volevamo che ci raccontassi un po' l'iniziativa di domani. Scusa, sì, allora. No, questa tante volte dall'altra parte fatto male le difficoltà. Allora, domani alle 18 inizia questo incontro alla sala da tè del Porto Fluviale. Appunto questo incontro rivolto alle donne in cui parliamo con Rasha di quale appunto sono le tematiche rispetto alle pratiche che le donne acquisiscono, adottano durante le lotte. E quindi cerchiamo di confrontarci le nostre esperienze, le sue, e superando poi quelli che sono i confini geografici, cercando di rompere un po' l'isolamento sia insomma, che tutti i giorni poi ci troviamo ad affrontare. Quindi sostanzialmente no, tutta la parte della repressione, militarizzazione, la cerchiamo di analizzare rispetto appunto a una visione di genere, una visione appunto rispetto a quello che succede alle donne. E ricordiamo, insomma, per chi non lo sapesse, che durante, insomma, le varie forme di repressione che sono state utilizzate contro i rivoluzionari egiziani, una delle pratiche utilizzate era quella del controllo della verginità. Sì, infatti quando poi la repressione arriva, no, allo stato puro sui corpi delle donne, ricevono, diciamo, sono sempre le prime a ricevere quelle che sono le risposte, diciamo, di chi opprime, di chi in qualche maniera vuole evitare qualsiasi tipo di conflitto. E quindi le donne che da una parte diventano il simbolo su cui si basa tutte le politiche di sicurezza, di militarizzazione, e dall'altra invece diventano il primo bersaglio per le politiche di repressione. Poi una giornata come quella di domani, dove comunque c'è il processo all'Aquila, dove una ragazza è stata stuprata da dei militari, quindi sarà una giornata comunque particolare per questo motivo. E da lì, insomma, si cerca di analizzare, appunto, sia il punto della repressione, della militarizzazione, ma dall'altra parte anche il conflitto e cosa significa in qualche maniera assumere determinate pratiche e assumerle consapevolmente e senza nessun tipo di limite, sia all'interno del movimento che dall'esterno. Va bene, ti ringrazio molto per il collegamento nonostante tutti i disguidi, grazie mille, ricordiamo l'appuntamento domani al Porto Fluviale. Dalle 18, poi rivolta alle donne, poi dopo verso le 20:30 ci sarà un aperitivo cena per le spese, appunto, del viaggio di Lascia, e quello sarà, insomma, misto. Quindi invitiamo tutti e tutte a venire e vi ringrazio, insomma, per l'occasione di poter ricordare questo appuntamento. Di niente, buona serata, ciao. Ciao. Of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed to tell my crime, the crime Allora, siamo di nuovo qui e questo numero di questa puntata la vogliamo dedicare tutta al lavoro. Allora, perché il lavoro ormai nel mondo femminile ha assunto un'importanza molto grande. Le donne sono entrate in maniera molto importante nel mondo del lavoro dagli anni 60, più o meno, tanto per darsi indicativamente una data. E vuoi perché c'è stata una presa di coscienza che si è andata affermando man mano nel tempo, e vuoi perché al capitale in quel momento faceva comodo nuova manodopera a costo più basso e allo stesso tempo una soggettività nuova da immettere nel mondo del mercato come consumatrice. Però, siccome i ruoli non sono modificati, non sono mai venuti meno perché sono strutturali, la donna si è trovata a subire un doppio sfruttamento nel lavoro di cura e nel lavoro all'esterno. Allora, passo la parola a Elena, che ci presenta delle ospiti che abbiamo qui oggi. Sì, allora oggi in particolar modo parleremo della Spending Review e delle società in-house che... sono appunto, abbiamo qui delle lavoratrici di Capitale Lavoro e di ACI Informatica che sono appunto, come poi vi spiegheremo, società in house. E i primi di luglio è stato presentato dal governo il decreto legge Spending Review, che prevede una revisione della spesa pubblica. E l'intento è quello di ridurre e ridefinire il welfare con la soppressione e la liberalizzazione dei servizi pubblici e quindi anche la privatizzazione di enti e società pubbliche. In particolar modo l'articolo 4 della Spending Review prevede lo scioglimento delle società in-house entro il 31 dicembre 2012 o l'alienazione delle società in-house entro il 30 giugno 2013. E in alternativa alla chiusura, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il 14 novembre 2012, l'ente pubblico può predisporre dei piani di ristrutturazione delle società controllate con un taglio dei costi del 20%. E allora, quindi, intanto cerchiamo di capire che cosa sono le società in-house. Le società in-house sono delle aziende la cui proprietà è o interamente o controllata dalla pubblica amministrazione, quindi questo significa enti locali, regionali, enti pubblici, eccetera, e sono società che svolgono tra il 70 e il 90% della loro attività, quindi dell'intero fatturato della società, a favore dell'amministrazione pubblica, e quindi gestiscono banche dati, servizi alla cultura, servizi urbanistici, eccetera. Nel corso degli ultimi anni c'è stato un blocco dell'assunzione dei dipendenti pubblici e quindi la riduzione dei dipendenti pubblici ha portato a un ingrandimento di queste società di servizi che appunto offrono i servizi per la pubblica amministrazione. E questo ha significato l'aumento delle assunzioni con forme contrattuali sicuramente più precarie rispetto a quelle che erano dei dipendenti pubblici e comunque con minori tutele. Ad esempio, vi facciamo un esempio, il servizio delle biblioteche è gestito sia dai dipendenti del Comune di Roma che da dipendenti Zetema, che è appunto una società in-house. E le condizioni di salario sono differenti, anche se materialmente il lavoro prestato da lavoratori e lavoratrici è esattamente lo stesso, cioè il servizio che viene fornito all'utente è lo stesso. E naturalmente il governo sta facendo passare anche attraverso gli organi di stampa questa legge come necessaria per abbattere gli sprechi e ottimizzare i costi. In realtà i maggiori sprechi riguardano naturalmente i dirigenti, che molto spesso poi sono... occupano questo posto attraverso... un clientelismo politico e quindi abbattere gli sprechi in realtà noi sappiamo che non significa far ricadere questi tagli sul lavoro svolto dai lavoratori e dalle lavoratrici. Oltretutto siamo ancora più convinte che per risparmiare e eliminare questi costi bisognerebbe reinternalizzare i servizi e quindi anche tutti e tutte coloro che lavorano in queste società. L'intento appunto è chiaro, è quello di ridefinire in realtà il mercato dei servizi della pubblica amministrazione, e in questo è stato molto chiaro il ministro Grilli, che in un'intervista della Repubblica chiarisce le vere logiche che hanno portato il governo Monti alla definizione dell'articolo 4. E cito appunto le parole del ministro Grilli: nel decreto Spending Review abbiamo cominciato a ridurre il perimetro e il costo delle società pubbliche e delle società in-house, che in prospettiva devono scomparire del tutto, perché hanno impedito al settore dei servizi di svilupparsi in modo efficace, riducendo lo spazio dei privati e limitando la concorrenza. E questo appunto è il quadro generale. E naturalmente in queste società ci sono lavoratori e lavoratrici che per fortuna fin da luglio hanno cominciato a mobilitarsi, e qui con noi abbiamo delle lavoratrici di ACI Informatica. E a fine luglio ACI Informatica, i lavoratori e le lavoratrici di ACI Informatica si sono appunto mobilitati e hanno scioperato per 6 giorni e sono stati in presidio a Piazza delle Cinque Lune in prossimità del Senato. Intanto volete raccontarci un po' questa esperienza, come è nata? Ciao a tutte e tutti, magari qualche tutti ci ascolta. Niente, noi appunto siamo lavoratrici di ACI Informatica e diciamo a luglio, quando è uscito il disegno di legge, noi ci siamo subito mobilitate e mobilitati. Noi comunque siamo abbastanza abituati a muoverci per conto nostro, siamo diciamo un posto di lavoro in cui comunque siamo auto-organizzati, e quindi abbiamo subito deciso di prendere il toro per le corna e andare sotto il Senato a manifestare il nostro dissenso per questo disegno di legge, in quanto proprio metteva a rischio i nostri posti di lavoro. Però abbiamo pensato comunque che, siccome non riguardava soltanto la nostra azienda, fosse il caso di andare a parlare con altre lavoratrici e lavoratori degli altri posti di lavoro che si trovano nelle stesse nostre condizioni. Quindi abbiamo volantinato in altri posti di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori hanno reagito bene, sono venuti in piazza, hanno visto com'è il nostro metodo. Noi non rispondiamo a nessun sindacato in particolare, ci muoviamo secondo gli interessi di lavoratrici e lavoratori in generale, in quello specifico momento per quanto riguardava il nostro posto di lavoro. E a luglio, già in piazza, siamo riusciti ad ottenere una modifica dell'articolato in cui si ampliavano gli spazi di esclusione da questa chiusura o vendita a privati delle aziende. In più l'articolato è uscito in modo che l'ente pubblico poteva in alternativa presentare un piano di riorganizzazione. Certo, questo è stato solo un primo passo, perché le forze espresse in piazza, sicuramente per quanto riguarda il nostro posto di lavoro, sono state di fatto quasi il 100% dei dipendenti, insomma c'è gente che è rientrata dalle ferie e tutto quanto. Però per ottenere sicuramente qualcosa di più c'è necessità di compattare lavoratrici e lavoratori che si trovano in questa condizione, altrimenti sicuramente ci siamo resi conto che da soli più di quello in quel momento non si poteva ottenere. Da settembre abbiamo riavviato il percorso con lavoratrici e lavoratori delle altre aziende. Questo percorso sta andando bene, peraltro si è ampliato anche il numero di aziende che partecipa a questo percorso. Sono qui lavoratrici di Capitale Lavoro, che è un'azienda che si è aggiunta successivamente, anche lì siamo andate a volantinare a parlare direttamente con loro. E da questo percorso avviato da settembre è uscita fuori la proposta di fare un'assemblea pubblica cittadina a Roma, che si svolgerà domani 18 ottobre alle 5 all'Università La Sapienza, Facoltà di Fisica. Quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare a questo momento, un momento importante in cui decideremo insieme quale potranno essere le iniziative da portare avanti per salvaguardare i nostri posti di lavoro, che insomma purtroppo bisogna lavorare per vivere, quindi questo. Io volevo fare una domanda, dato che gli aspetti di genere del lavoro sono quelli che in effetti come femministe e come donne ci interessano particolarmente. Una domanda, cioè quante donne o che percentuale di donne c'è in questo tipo di lavoro in queste aziende? E se le donne pagano un prezzo particolare rispetto alla componente maschile. Dopodiché, una nota margine, io sono in difficoltà a chiamarvi lavoratrici, devo dire la verità, perché per me siete donne che lavorano, cioè dire lavoratrice già mi dà un connotato di qualcuna che viene incasellata in un ruolo, mentre di solito il lavoro dovrebbe essere una parte della vita, e comunque questa società ci obbliga in effetti, perché dobbiamo vivere. Però io sinceramente preferisco chiamarvi donne che lavorano e non lavoratrici, perché va bene comunque. Ok, allora su questa ultima cosa che hai detto, che dire, sono d'accordo, cioè questo sistema ci obbliga a lavorare e purtroppo il conflitto capitale-lavoro è quello centrale, quindi vabbè, io ho detto lavoratrice, mi considero una lavoratrice, non so le altre cosa ne pensano. Comunque una cosa che abbiamo constatato, allora, in ACE Informatica la componente femminile rappresenta circa il 30% della forza lavoro, noi svolgiamo attività informatiche. Però quello che abbiamo notato è che nel percorso ci sono, cioè alle riunioni che abbiamo fatto da settembre ad oggi, c'è una fortissima maggioritaria componente femminile, e sicuramente c'è da constatare il fatto che le riunioni vengono fatte comunque in un orario subito successivo alla fine dell'orario di lavoro, e quindi magari in questo spazio di tempo ancora le donne hanno possibilità di partecipazione. Quando poi magari si va un po' oltre l'orario di lavoro, si cominciano a riscontrare le prime difficoltà. Va bene, mettiamo un piccolissimo stacco e poi continuiamo. Appunto, come ci spiegava Barbara, che è appunto una lavoratrice di ACE Informatica, da settembre ci sono state appunto degli appuntamenti fissi, delle riunioni fisse per organizzare poi dei momenti di lotta comuni. E è iniziato quindi un percorso che ha visto partecipare lavoratori e lavoratrici di alcune appunto società in house, per il momento le società che stanno portando avanti questa lotta sono Risorse per Roma, Zetema, Light, Lazio Service, ACI Informatica e Capitale Lavoro. E volevamo appunto chiedere un'altra lavoratrice di ACI Informatica, appunto come ci diceva prima Barbara, loro sono un po' abituati a incontrarsi in assemblea e a auto-organizzarsi e quindi a non delegare i loro interessi a nessun altro, ma a partecipare in prima persona, e quindi volevamo sapere che cosa significa per loro l'auto-organizzazione. Beh, diciamo che a livello personale ho avuto un impatto molto, molto convincente rispetto a qualsiasi altra realtà professionale che avessi vissuto in precedenza, perché è palpabile nel momento in cui ti trovi a poterti confrontare direttamente con delle persone che si mettono in gioco per difendere degli interessi che sono identici ai tuoi, che non mettono in campo nessun altro tipo di forza. È palpabile la credibilità del lavoro che viene portato avanti, e è molto molto convincente, e oltre a essere convincente porta anche dei risultati a livello di partecipazione che abbiamo potuto verificare anche in quest'ultimo episodio, in quest'ultima vertenza di luglio, per cui la partecipazione dei lavoratori ACI Informatica è stata veramente numericamente importante, cosa che nel momento in cui c'è una rappresentanza di altra natura non è facile riscontrare in nessun caso. Quindi, oltre a questo, poi c'è anche la responsabilizzazione di ogni singolo componente che si trova a partecipare a un'assemblea, essere contattato, a interagire con i delegati, ma non solo, con tutti i lavoratori. Cioè, si crea comunque una coscienza che, ripeto, in altri posti di lavoro non è riscontrabile in nessun caso. Cioè, la maggior parte delle persone partecipa allo studio dei vari passaggi, dalla presentazione ancora prima del disegno di legge, la relazione tecnica e quant'altro. Di fronte a eventualità che ricadono sulle nostre teste, noi generalmente siamo sempre informati per tempo e preparati per tempo, a livello generale, cioè non soltanto due delegati che poi dopo in realtà magari guardano a altri aspetti, altre loro situazioni politiche legate alle varie realtà per le quali alla fine lavorano. Respect me, yes, I'm here to be. Allora, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione I Nomi delle Cose a cura della coordinamenta femminista e lesbica. E abbiamo qui con noi appunto delle lavoratrici delle società in house e stavamo appunto riflettendo con loro sull'importanza delle lotte auto-organizzate. E proprio in questo senso, insomma, quello che volevamo chiedervi è quanto ha inciso nella volontà di partecipare a questo percorso di lotta il fatto che questo percorso sia un percorso auto-organizzato, quindi dove non ci sono sindacati che dirigono o decidono gli appuntamenti della lotta, e poi quanto il fatto che l'assemblea sia auto-organizzata e quindi che preveda una discussione aperta, orizzontale, appunto non gerarchica, e rende maggiore anche la partecipazione delle donne che appunto magari sentono meno il ruolo di sudditanza rispetto all'uomo. Dunque, io sono Anna Rita e sono di Capitale Lavoro SPA, che è la società della provincia di Roma. E noi, come diceva Barbara di ACI Informatica, ci siamo aggiunti a settembre e siamo stati felicissimi di questa scelta, perché stiamo portando avanti, diciamo così, questo discorso di lotta parallelamente, nel senso che stiamo seguendo due strade. Questa dell'auto-organizzazione, l'altra invece è la strada, tra virgolette, istituzionale, tramite i nostri sindacati. E devo dire che il primo percorso, cioè quello dell'auto-organizzazione, è quello che ci sta soddisfacendo molto di più, proprio perché possiamo tranquillamente mettere in campo tutte le azioni che riteniamo di dover mettere in campo senza doverci preoccupare di dare fastidio o disturbare i poteri, che siano essi sindacali, che siano essi politici. E ciò è fondamentale. In effetti, proprio oggi abbiamo avuto degli scontri via mail con le nostre rappresentanze di categoria, perché loro seguono percorsi che in realtà adesso secondo noi non sono più percorribili perché non c'è tempo, quindi occorre fare tutto e farlo in fretta. Per cui siamo felicissimi di questa assemblea cittadina di domani del 18 e devo dire che comunque il percorso che stiamo intraprendendo a livello di auto-organizzati, suona un po' male questa parola organizzati, ma rende l'idea, è, diciamo così, un percorso che, come dire, dà spazio a tutti, e in effetti lo stiamo seguendo in prima persona, soprattutto, come diceva la nostra amica, insomma, Elena, noi donne, perché in realtà la componente femminile a Capitale Lavoro è preponderante, cioè raggiungiamo veramente, adesso non so bene esattamente, ma percentuali oltre comunque la metà, 60-70% di donne, soprattutto poi preparate, cioè la maggioranza di noi sono laureate, per cui il discorso fondamentale è che mettere in mezzo alla strada questo, come dire, parterre di esseri umani di sesso femminile, donne, che hanno ovviamente non soltanto, cioè che hanno molte competenze, e soprattutto molte di loro tirano avanti la famiglia. Per cui sicuramente il discorso dell'auto-organizzazione è quello che ci piace molto di più, per cui ovviamente noi, soprattutto noi di Capitale Lavoro, che abbiamo un interlocutore provincia di Roma che è in fase di scomparsa, per cui tra un po' non sapremo neanche più a chi rivolgerci, possiamo tranquillamente, tramite, diciamo così, la nostra gestione molto personale, rivolgerci al presidente Zingaretti e all'assessore Smeriglio e chiedere: scusate, avete pensato prima di fare le valigie per altri lidi politici che fine facciamo noi, cioè questa società creata dalla politica, per cui dove dentro però ci sono esseri umani, cioè non ci sono solo voti, ci sono esseri umani. so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then. Riot. You blow a fuse. Simple, the time cuts loose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Occhio che non vede, cuore che non duole. Un bambino di 10 anni è stato trascinato a forza, urlante, dalla polizia via dalla sua classe di una scuola elementare dell'Alta Padovana. I genitori sono separati. Il giudice ha deciso di sottrarlo alla potestà della madre, a cui era già stato affidato, e di farlo trasferire in una struttura cosiddetta protetta. Ma il bambino, che vuol stare con la mamma, ha opposto una strenua resistenza, cercava di scappare mentre la polizia lo caricava su una volante e chiamava la zia lì accorsa. Al di là dello sconcerto e dell'indignazione suscitate nell'opinione pubblica, dato che quello che è successo è stato filmato con un telefonino e divulgato, l'episodio è emblematico e disegna a tutto campo la nostra società. La pratica di togliere i bambini alla famiglia e di darli alle strutture pubbliche è sempre più diffusa. I figli vengono tolti perché i genitori sono troppo poveri, perché sono separati e se li contendono, perché sono rom, perché i genitori vengono considerati incapaci di allevarli. È la miscela tra lo stato etico neoliberista, che pretende di normare le nostre vite, e la visione politicamente corretta che ci ha accompagnato in questi anni, che attraverso un buonismo strumentale delega agli esperti la nostra esistenza. In questo caso il percorso giudiziario che ha portato all'azione di forza nei confronti del bambino è stato attivato dal padre, il che ci fa capire da solo che la madre ha ragione, con una serie di motivazioni che altro non sono che i principi della PAS, la cosiddetta sindrome da alienazione parentale, secondo la quale la madre, nella stragrande maggioranza dei casi, influenzerebbe il giudizio dei figli sul padre, per cui perfino le violenze subite in famiglia e le botte alla compagna diventerebbero allucinazioni dei bambini indotte dal comportamento materno. Quindi non viene preso in nessuna considerazione il desiderio dei figli di scegliere il genitore con cui stare e vengono perfino costretti a continuare a frequentare il genitore violento. Ma questa teoria non è relegabile nei confini del cosiddetto diritto di famiglia. Fa parte della tendenza, che il neoliberismo vuol far passare in tutti i campi, di confondere l'aggredita con l'aggressore, di porre sullo stesso piano oppressori e oppressi, di diluire i conflitti di classe nella convivenza civile e l'oppressione strutturale delle donne, sulle donne a un sereno rapporto fra i sessi. Alla PAS non è riconosciuta validità scientifica dal consesso internazionale, ci dicono, ma se anche dovessero riconoscerne questa presunta validità scientifica, noi tutte sappiamo che la scienza non è neutrale, non è asettica, ma al servizio degli interessi del sistema socio-economico in cui è calata. La violenza sulle donne non è solo fisica, quella psicologica e burocratica portata avanti dalle istituzioni è altrettanto devastante. Si aprono anche scenari di violenza classista, perché dovunque ci sia un esperto e un'esperta che decide sulla nostra vita ed uno Stato particolarmente invasivo, chi ha meno strumenti culturali è molto più in difesa e chi è più ricco, semplicemente benestante o con una posizione sociale più importante che di solito il maschio, ha un gioco estremamente più facile. Le armi dello psicologo e della psicologa, dello psichiatra e della psichiatra e delle case di cura sono strumenti che le classi abbienti hanno sempre usato per internare le donne che non volevano omologarsi. Una nota a margine riguarda l'informazione e l'indignazione dell'opinione pubblica. Un fatto accade solo se esiste mediaticamente e questo dovrebbe far riflettere due volte. All'andata sulla capacità dei media di appropriarsi di un fatto e di suscitare una reazione collettiva, al ritorno sulla capacità di media di azzerare tutti i fatti che sono scomodi e di tacerli. Una chicca in questo senso riguarda le affermazioni del garante della privacy, che ha tuonato contro i media perché non dovevano rendere pubblico il filmato per la tutela dell'infanzia, ha detto. Certo, occhio che non vede, cuore che non duole. Poi c'è il ruolo della polizia e delle istituzioni in divisa, che è sempre lo stesso. Picchiano nelle piazze chi è senza lavoro, picchiano gli studenti che protestano, picchiano i pastori sardi, picchiano i notav. Perché ci meravigliamo se la polizia trascina per i piedi un bambino urlante e lo infila in una volante? La loro arroganza e impunità si manifesta compiutamente nelle parole dell'ispettrice alla zia. Io sono un ispettore di polizia, lei non è nessuno. E nella denuncia da parte della polizia, della zia e del nonno per oltraggio e resistenza. D'altro canto sono le stesse istituzioni in divisa che trascinavano fuori dalle aule di scuola i bambini ebrei in osservanza delle leggi razziali. E le pratiche della non violenza e le vestali della legalità brillano per il silenzio. La parentesi di Elisabetta. Us off the air with the song Someone Like You. You can see the full performance at JimmyKimmelLive.com. Once again, Adele, good night. E infine un qualcosa che ci interessa molto, molto da vicino. L'ispettore di polizia è una donna. L'emancipazione, che non intendiamo certo rifiutare, perché le donne fanno e devono poter fare se vogliono qualunque lavoro, e lo fanno bene e male come i maschi, se diventa un fine e non un mezzo, non aiuta, anzi è di ostacolo alla liberazione delle donne. Il percorso emancipatorio, così come si è realizzato, ha portato tante donne a legarsi profondamente con la struttura di potere e a diventare attive componenti dell'oppressione sulle altre donne, risolvendo in cambio le loro personali ambizioni di carriera. E il giudizio politico su quello che fanno non solo è auspicabile, ma necessario. Per questo è importante per noi femministe prendere atto della svendita, del tradimento, della collocazione altra di appartenenti all'insieme di genere, perché non rechino danno alla lotta di liberazione e perché la chiarezza politica è, di tutte le lotte di liberazione, elemento fondante. Ciao. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passersby. Mirrored in their faces I see frustration growing, and they don't see it show. gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. In a world where tears are just a lullaby, if there's any answer, maybe love. Ciao, non so se avete sentito la parentesi di Elisabetta, abbiamo avuto dei problemi tecnici e siamo appunto sempre sulla trasmissione I nomi delle cose con le lavoratrici di Capitale Lavoro e ACI Informatica. E vi ricordiamo che domani 18 ottobre alle 17 alla Facoltà di Fisica della Sapienza ci sarà appunto un'assemblea cittadina indetta dal lavoratrici e lavoratori delle società in house per verificare insieme quali possono essere I percorsi di lotta per contrastare la spending review. A proposito di lavoro, a proposito di auto-organizzazione, a proposito di delega, c'è un'osservazione interessante che ci viene da un convegno che è stato fatto domenica, questa domenica che è 14, da un'organizzazione, se non ora quando, che è un'organizzazione femminile di stampo neoliberista, che ha invitato la ministra del lavoro Fornero ad un convegno contro la violenza sulle donne. E a un certo punto c'è stata un'irruzione di alcune donne di un collettivo Altra Eva e di alcune donne della FIOM che hanno contestato quello che diceva la ministra e che hanno praticamente portato dei punti secondo loro che la ministra avrebbe dovuto prendere in considerazione. Ora, al di là di tutto questo, cioè del fatto che un'organizzazione neoliberista si prenda la briga di fare un convegno contro la violenza sulle donne, che a questo convegno venga invitata quella che è una delle autrici della violenza sulle donne sotto svariati punti di vista. Però questa è una cosa che riguarda un percorso neoliberista. Nel momento in cui si va a contestare una situazione di questo tipo, succede una cosa particolare che è successa infatti ieri, cioè che è successo infatti domenica, cioè queste donne che contestavano sono state prese dalla ministra, sono state ascoltate, ha detto che le avrebbe sentite in privato e poi ha fatto delle dichiarazioni dicendo che c'è stato un confronto democratico, queste donne mi hanno rappresentato in maniera civile I loro problemi di lavoro e io ne terrò conto. Questo, al di là di ogni parola che una può spendere, ci fa capire quanto questo tipo di contestazioni, questo tipo di reazioni rivolte al potere, che in effetti è quello che è la causa dei mali che si denunciano, ottiene due risultati: uno, l'essere inutile, e il secondo, rafforzare ulteriormente il potere, perché ha dato modo alla ministra di rappresentarsi come parte disponibile, come parte pronta all'ascolto e che prenderà provvedimenti. Quindi arriviamo all'estremo che la contestazione addirittura è funzionale al sistema stesso. Per questo noi femministe siamo comunque per ogni forma di auto-organizzazione e di autonomia e siamo contentissime di qualsiasi altra forma di organizzazione e di autonomia prenda piede e si sviluppi. Sì, allora, quindi noi come coordinamento domani parteciperemo all'assemblea cittadina alle ore 17 alla Facoltà di Fisica della Sapienza, proprio perché riteniamo che sia importante sostenere le lotte auto-organizzate. E perché appunto riteniamo che un percorso di liberazione si costruisce attraverso la condivisione e i legami con tutte e tutti coloro che in autonomia lottano contro il modello socio-economico capitalista. Passo un attimo la parola sempre a una lavoratrice di Capitale Lavoro. Volevo chiudere dicendo che se c'è qualche lavoratore, lavoratrice di altre società in house che non sono nell'elenco che è stato citato comunque fino ad adesso, lo preghiamo, li preghiamo di venire domani all'assemblea cittadina affinché possano mettersi in contatto con noi e quindi aggiungersi alla lista e aiutarci. Ovviamente l'unione, come si dice, fa la forza, più siamo meglio è. Pertanto invitiamo diciamo così, altri lavoratori ad aiutarci e comunque a lottare insieme a noi. Just at this moment of the world, the snow gathers like bolts of lace, waltzing on a ballroom girl. Allora, volevo ricordare comunque che proprio perché questa è la trasmissione della Coordinamenta Femminista e Lesbica, ci potete ascoltare le registrazioni delle trasmissioni sul nostro blog www.coordinamenta.noblogs.org, dove troverete anche il materiale che produciamo, gli appuntamenti, eccetera, oppure ci potete scrivere su coordinamenta@autistiche.org, coordinamenta con due O, altrimenti non si apre niente. Strains of many good men coming through the snow and the pine wood trees. I'm porous with travel fever, but you know I'm so glad to be on my own. Somehow the slightest touch of a stranger can set up trembling in my bones. I know no one's gonna show me everything. We all come and go unknown, each so deep and superficial. Between the forceps and the stone, while I looked at the granite markers, those tributes to finality, to eternity. Here, chicken scratching for my immortality. E in chiusura ricordiamo due appuntamenti importanti. Uno, domani c'è la prima udienza del processo per stupro all'Aquila contro il militare che ha stuprato la ragazza di 20 anni a Pizzoli e Francesco Tuccia, e ci sarà un presidio sotto il tribunale e noi come coordinamenta faremo volantinaggi qui a Roma e comunicazione e diffusione e conoscenza della notizia.